La posizione della Cina, diciamo, è stata formalizzata in qualche modo il 25 di febbraio, quindi il giorno dopo l'inizio delle operazioni russe e l'invasione russa dell'Ucraina. È stata formalizzata in una dichiarazione in 5 punti fatta dal ministro degli esteri cinese Wang Yi, e che sostanzialmente inquadra la questione appunto dentro una cornice di 5 punti che rivendicano il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale. Quindi questo, diciamo, è un punto assolutamente centrale per l'Ucraina. Rivendicano la sicurezza, rivendicano che la sicurezza di uno Stato non può avvenire, non può realizzarsi a spese altrui, e questo invece è un punto che bilancia più sul versante russo, perché quello che segue è una dichiarazione esplicita rispetto al fatto che i processi di espansione a est della NATO hanno determinato delle legittime preoccupazioni da parte russa, e queste preoccupazioni devono essere ragionevolmente prese in considerazione. Il terzo punto è forse quello centrale, il virgolettato dice proprio questo: l'attuale situazione non è quella che vogliamo vedere. Il quarto e il quinto punto invece sostengono la necessità di una risoluzione pacifica del conflitto nei termini più veloci possibile, e il ruolo costruttivo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che altro non significa che l'abbandono dell'approccio sanzionatorio rispetto alla Russia. E quindi questa, diciamo, è la componente costruttiva a cui si fa riferimento quando si parla di ruolo costruttivo delle Nazioni Unite. Il documento in 5 punti, come vedete, è piuttosto articolato, è però molto bilanciato. Si tengono in considerazione le necessità e anche le preoccupazioni che fanno riferimento all'Ucraina, e dall'altro però si cerca di mettere a tema anche alcune questioni che sono centrali rispetto a come la Russia considera le ragioni del proprio intervento in Ucraina. Quindi c'è una sorta di equilibrio, di bilanciamento e di tentativo di mantenere al sistema le varie stanze in gioco. Questo documento, pur essendo vecchio ormai di un mese, rimane alla base della visione cinese rispetto al conflitto in corso. Ed è anche per questo forse che la Cina risponde abbastanza stizzita a tutti i tentativi di tirarla per la giacchetta, non ultimo anche quello della NATO. Sì, questa cosa dà da riflettere, nel senso che ci si chiede per quale motivo bisogna sempre tirare in ballo la Cina, come se mantenesse le redini o avesse in qualche modo un'influenza decisiva su questi processi. Da parte della NATO sembra piuttosto un'operazione strumentale, dal momento che, come si sa, le relazioni tra i paesi occidentali, europei e gli Stati Uniti da un lato e la Cina dall'altro sono piuttosto tesi ormai da qualche anno e, diciamo, non danno segno di miglioramento, anzi. Quindi il richiamo alla Cina, con il presidente Biden ha detto chiaramente che eventuali movimenti o movimentazioni di sostegno, quindi invio di armi o di altro tipo di aiuti alle operazioni militari russe in Ucraina da parte della Cina, ovviamente incontreranno, diciamo, la punizione da parte degli Stati Uniti, ovviamente dichiarazione che poi è stata parzialmente rimodulata. C'è sempre il tentativo di tenere dentro la Cina, però non in modo costruttivo da parte della NATO, ma nel tentativo costante di metterla alla sbarra fondamentalmente, e questo, diciamo, è tanto più significativo laddove si consideri che invece la Cina non ha mai, diciamo, sebbene non abbia mai espresso, e questo è vero, parole di espressa condanna, di condanna manifesta dell'invasione russa dell'Ucraina, non ha comunque mai sostenuto apertamente tale processo. Anzi, ci sono diverse ragioni per credere che la Cina sia abbastanza infastidita o comunque sicuramente non piacevolmente colpita da quanto sta succedendo in Ucraina. Per cui, ecco, da parte della NATO o da parte dei paesi occidentali, forse ai fini di una maggiore e più seria garanzia di un percorso che possa portare alla pace, che possa, come dire, in qualche modo articolarsi in un piano di stabilità, forse richiami alla Cina dovrebbero avvenire in altri modi, ecco, e con altri termini. Però appunto in una situazione di tentativo perlomeno di isolamento della Russia, la scelta della Cina in una direzione o nell'altra, di un colosso come la Cina in una direzione o nell'altra, potrebbe essere determinante per le sorti stesse della guerra? Mi chiedo in che modo, nel senso che tendo a credere che sia enfatizzata oltremodo la capacità o la leva politica che la Cina può agire sulla Russia. La Russia è un paese indipendente che diciamo ha anche una sua personalità politica e una fisionomia politica, anche di politica estera, quindi diplomatica, piuttosto ben definita. Non vedo in che modo la Cina possa agire direttamente su un piano di influenza rispetto alla Russia. Se poi ci si aspetta dalle autorità politiche cinesi una presa di posizione netta rispetto al conflitto in essere, non si fa i conti in maniera sensata con la realtà. La Cina è un paese che nutre ottimi rapporti con la Russia e buonissimi rapporti anche con l'Ucraina. E ripeto, la Cina è assolutamente colta in modo poco piacevole, non gradisce quanto sta accadendo, però si ritrova in una situazione particolarmente delicata in cui da un lato vede le relazioni, la partnership strategica con la Russia come interesse ed elemento da salvaguardare. All'inizio di febbraio la famosa dichiarazione dell'amicizia senza limiti tra la Cina e la Russia nel contesto delle Olimpiadi invernali a Pechino. Più prosaicamente ci sono anche relazioni economiche abbastanza nutrite, sempre in quel contesto è stato siglato un contratto per la fornitura di gas attraverso i gasdotti che attraversano la Russia e portano fondamentalmente il gas in Cina per una trentina di anni. Dall'altro lato, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia mette fortemente in crisi i principi della politica estera cinese, laddove si consideri che fondamentalmente la Cina è un paese che ha fatto dell'integrità territoriale e del rispetto della sovranità non soltanto, diciamo, una battaglia politica che è stata anche alla base della legittimità del Partito Comunista Cinese, ma che ha rappresentato un principio, uno dei 5 principi di coesistenza pacifica che dal 54 disegnano e guidano lo sviluppo della politica estera cinese. Quindi, come si può vedere, è possibile vedere che la posizione della Cina è una posizione molto delicata in cui il mantenimento di un equilibrio è un'operazione particolarmente difficile. Richiedere al paese una presa di posizione netta rispetto a questo contesto e in questo quadro è comprensibile, ma va comunque problematizzato laddove si consideri che ci sono davvero tanti interessi materiali e anche tante possibili implicazioni politiche e diplomatiche rispetto a una qualsiasi presa di posizione in un senso o in un altro da parte della Cina.